get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. I just wanna tell you right now. I really do believe that something's got a hold on me here. Oh, I'm a sinner. Siete all'ascolto di una trasmissione. Siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, scusate, abbiamo avuto qualche piccolo problema, è una trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87-900 di Radio Onda Rossa. Buonasera da Claudia e Rosina. Buonasera, scusate, sono io alla cabina di regia e penso che avrete un po' di problemini nell'ascolto questa sera, ma questa è anche un po' colpa vostra, perché se venisse a darci una mano avremo altre tecniche e non io e Rosina. Comunque, benvenute a tutte, ciao e... Iniziamo la trasmissione 122 che è sulla clonazione e partenogenesi. Non vi spaventate subito, visto che sto in studio io, non è una trasmissione molto pesante, perché avremo anche dopo il contributo fondamentale di Rosanna Fiocchetto, registrato al Festival d'Immaginaria di quest'anno, che parlerà appunto della partenogenesi. Cos'è? È quel fenomeno di autofecondazione che fa nascere solo femmine. Consiste nel concepimento e nello sviluppo di un embrione mediante un processo chiamato mitosi, in cui l'ovulo femminile venuto a maturazione si raddoppia da sé per autofecondazione fino a generare una figlia femmina. Che ne dite? Vi può interessare? Bene. Tanto più che poi sentirete dalla voce di Rosanna in che consiste questo fenomeno. Sono temi che proponiamo in questo frangente critico, ma ormai i contesti critici sono labbrassi purtroppo, perché mentre ci si interroga se un altro mondo è possibile, noi da lesbiche separatiste ci siamo chieste: un mondo senza maschi è possibile? E a quanto sembra parrebbe proprio di sì. E adesso cerco di mandarvi scandalo. Allora, iniziamo con la clonazione, con l'avvertenza che questo testo è tratto dall'articolo Nel clone del padre, che potete trovare sul sito www.ecologiasociale.org. Dunque, cerchiamo di capire di che cosa si tratta. La clonazione consiste in pratica nel trasferimento di un nucleo di una cellula del corpo matura all'interno di una cellula uovo privata del proprio materiale genetico. Dunque, la cellula uovo ha la capacità di riprogrammare il nucleo maturo in essa trasferito e di attuare quindi un processo di riprogrammazione genetica del DNA e di guidarne lo sviluppo embrionale fino al completamento e alla nascita di un nuovo individuo. Dunque, è fondamentale soffermarsi su questo punto. Senza cellula uovo non c'è clonazione, quindi senza le donne non si può clonare. Per quanto si sforzino, perciò i poveri maschietti proprio non ce la fanno a realizzare il loro più grande desiderio di procreare da soli. Dunque, si parla in genere di clonazione terapeutica e clonazione riproduttiva. Il processo biologico che ne è alla base è identico, ma la scienza maschilista da sempre, come sostiene la nostra compagna Claudia, ne distingue subdolamente le finalità. Quindi il processo biologico consiste, come abbiamo visto, in quel miracolo operato dall'ovulo femminile che riporta il DNA di una cellula adulta alla sua forma primordiale, di quando cioè si era appena formato l'embrione. La clonazione terapeutica mirerebbe, con esperimenti di laboratorio limitati alla fase embrionale, a scoprire quella serie di sostanze dell'ovulo che operano questo cosiddetto miracolo, per poi utilizzarle per la creazione di organi da impiantare direttamente in soggetti malati. E dunque la clonazione riproduttiva invece mira soltanto a sfruttare quel miracolo per fare una fotocopia di un essere umano. Quindi avete capito l'antifona, gli scienziati vogliono scoprire come caspita faccia quest'ovulo a riprogrammare il DNA per poter finalmente procreare senza le donne. Altro che clonazione terapeutica. Poi forse qualcuno di voi crede che si fermerebbero alla fase embrionale. Per gli scienziati non esistono limiti etici che si rispettino quando un processo è in atto, figurarsi poi se si tratti di dare vita ad un essere umano nel loro delirio di onnipotenza. La scienza fa sempre tutto quello che può fare, purché non nuoccia al potere naturalmente, ma al potere maschile si intende clonare non può che essere confacente. Vi ricordate quando la donna per la scienza era contenitore e incubatrice del prezioso seme maschile? Ancora oggi ovviamente è così. Paradossalmente potremmo ritrovarci un'altra volta contenitori, stavolta però di nuclei. E sono significative le parole di Severino Antinori, il noto ginecologo, che ha detto: presenterò la prima donna incinta di un clone, dove in quel presenterò è racchiusa tutta l'arroganza di chi si ritiene creatore e l'implicita insignificanza o disprezzo per la donna, il mezzo, lo strumento attraverso cui realizza la sua creazione morale. Il maschio è ancora una volta il creatore. E poi ovviamente c'è anche il discorso economico, perché sul mercato globale chi ha compra, chi non ha vende ciò che gli rimane, parti di corpo, uteri, ovuli, chi ne ha più ne metta. Dunque, per creare la simpatica pecora Dolly, che ha fatto una pessima fine a quanto sappiamo, sono occorsi oltre 300 tentativi. Quanti ovuli ed ovociti occorreranno per creare una persona? Da chi vengono presi quelli usati negli esperimenti più o meno ufficiali nella corsa a chi arriva prima al mercato? Da donne naturalmente, almeno per il momento, ma da quali, da quante, in che modo? Nessuno lo dice. Il silenzio su questo argomento è un ulteriore sintomo della situazione attuale delle donne. Abbiamo perso terreno nel difendere il nostro corpo e la nostra identità. Mettere al mondo il clone del padre, padre scientifico, è il grave rischio che si prospetta all'orizzonte con tutto il significato di strumentalizzazione scientifica, di subalternità filosofica e di svalorizzazione di sé, su cui occorre cominciare a riflettere. Come potremmo riflettere d'altra parte anche sul dato inconfutabile che solo noi siamo in grado di poter clonare e da sole? E se clonassero solo femmine? Machete, hay que trabajar en la ropa limpia, guardas el cansancio, al fogón vacío, sueños echarás, tu luz arrastra todo un resplandor, frente que posa charcos de sudor, canto que grita, momentos de paz. Descubre el rostro de la libertad. E questa è Oci Curiel, Mariposa che alza il velo. horas de ayer. Despierta el mundo en el amanecer, me despierta tus ganas de amar, canta el silencio tu felicidad. Saca el vuelo, vuelo, brisa que arde al quemarla el sol, gota de aguacero, flor de soledad, deseos que evocan las ansias de amar. Ebbene, grazie per i trillini, ricordiamo il numero di telefono è 06 49 17 50, ne aspettiamo, ce ne abbiamo bisogno veramente questa sera ragazze, e iniziamo adesso a parlare della partenogenesi, processo riproduttivo, come dicevamo prima, che ci consente di procreare senza maschi e per di più generando solo femmine, senza manipolazioni tecnologiche. Vi pare una favola? E allora state a sentire Rosanna Fiocchetto in uno stralcio della presentazione a Immaginario 2003 del libro di Marianne Weck, Partenogenesi oggi, la forza primordiale della donna di concepire da sé senza partecipazione di un secondo sesso. Edizioni di L'Aurora, Sovvicini di Siena. E a questo libro Rosanna Fiocchetto ha collaborato curandone sia la traduzione che l'edizione. Ascoltate. Perché è responsabile, no, della nascita di esseri umani maschili, è probabilmente frutto di una mutazione genetica che è intervenuta a un certo punto nella storia per motivi su cui, insomma, ci sanno diverse ipotesi, poi magari ne parlerò un attimo. Allora, questo cromosoma di per conversione grafica, cioè per noi leggiamo un libro istruzio, perché indicare il genere sessuale maschile, viene rappresentato praticamente uguale per dimensioni al cromosoma X, ma questa è soltanto una convenzione grafica, perché in realtà il cromosoma Y è molto più piccolo, a circa un quinto della grandezza della X. E osservato al microscopio sembra piuttosto come una piccola V, cioè come una X monca di due filamenti. Se vi interessa poi ho portato delle fotografie in microscopio, è interessante insomma guardarlo, perché veramente dà proprio un'idea precisa. Allora, e questo è anche il mio libro, salva Maria del mio libro, per cui nel complesso gli uomini hanno una salute più cagionevole, molto più cagionevole delle donne, e una vita meno lunga già dalla condizione prenatale, perché gli aborti spontanei sono più frequenti nei periodi maschili. Allora, che cos'è scientificamente la partenogenesi? Perché c'è questa differenza proprio genetica, no, alla base della vita? Allora, chiariamo subito che la partenogenesi non ha nulla a che fare con la condizione manipolatoria. La clonazione è un procedimento manipolatorio, è un procedimento artificiale, cioè condotto in laboratorio, che priva una cellula sessuale femminile del nucleo e sostituisce a questo nucleo il nucleo di un'altra cellula. Il processo della partenogenesi invece è spontaneo, anche se anch'esso può essere stimolato artificialmente in laboratorio, però avviene anche spontaneamente, a differenza della donazione, e consiste nel concepimento, nello sviluppo di un embrione mediante un processo di divisione cellulare che viene chiamato microsomi, in questo processo successo l'ovulo femminile la uscita, venuta a maturazione si va proprio da sé creando fecondazione senza un intervento esterno, no? Ma ci può essere anche un intervento esterno o che stimola questa divisione, però insomma la centralità proprio della cellula sessuale femminile è quella che è in grado di dividersi e di produrre da sé. Allora invece questa è, diciamo, questo che sto descrivendo è il processo di riproduzione partenogenetica. Si potrebbe chiamare anche quindi riproduzione unisessuale. Nella riproduzione bisessuale o eterosessuale invece interviene lo spermatozoo maschile che si fonde con l'ovulo e provoca una divisione cellulare che viene chiamata meiosi. Sono due processi quindi completamente diversi, no, in fecondazione. Allora, in questo caso, nel caso della meiosi, sono necessarie due cellule germinali, una cellula femminile con 46 cromosomi XX e una cellula maschile con altrettanti cromosomi ma con una XY nell'ultima coppia di cromosomi. Quindi praticamente la determinazione del sesso maschile è data soltanto da un cromosoma su 46, questo Y che appare nell'ultima coppia di cromosomi. Invece dicevo che in questo tipo di riproduzione eterosessuale sono necessarie due cellule germinali, invece nel concepimento partenogenetico è necessaria una sola cellula femminile e ci sono soltanto cromosomi X. Questo vuol dire che da questo tipo di autofecondazione, da questo tipo di concepimento, nascono soltanto femmine, esclusivamente femmine. Di più si tratta di bambine che sono estremamente robusti e resistenti perché nella partenogenesi ogni informazione genetica è doppia. Allora, questa circostanza, il fatto che nascono solo femmine, è ovvio che rende questo tipo di riproduzione molto impopolare tra i maschi, no? I quali non ne parlano affatto, non dicono che esiste, infatti, per non prendere grossi rischi. Però la utilizzano ampiamente nella zootecnia, questo dagli anni 50, per ottenere per esempio soltanto mucche da latte, cioè praticamente provocano artificialmente la partenogenesi delle mucche con delle tecniche che sono anche abbastanza semplici, poi Bex ne fa qui un elenco, no? E per ottenere soltanto mucche da latte. Invece per quanto riguarda le femmine umane, gli uomini hanno cercato di cancellare con ogni mezzo nella società la conoscenza e la coscienza di questa capacità partenogenetica. Quando è cominciata questa cancellazione? È cominciata con agli albori del patriarcato, no? In contrasto con il precedente culto della dea madre nelle società matriarcali, no? La dea madre era un culto che si è sviluppato per migliaia di anni, no? Fino per tutto il paleolitico e il neolitico, fino a circa 5.000 a.C., quando è cominciata un'invasione di popoli patriarcali dall'area indoeuropea. E l'immagine della mia madre era proprio la madre che simbolicamente partorisce da se stessa l'universo, no? E nel patriarcato le donne avevano, grazie alla conoscenza di questa capacità, una centralità sia sacrale che economica che culturale, perché capaci di fecondazione, era riconosciuta questa capacità. Agli inizi del patriarcato c'è il tentativo di fondare dei miti sostitutivi al maschile, per esempio ci pensiamo un attimo Zeus che partorisce dalla testa o dalla coscia la figlia Atena. Oppure come la leggenda giudaico-cristiana di Adamo, dalla cui costola nasce Eva. E cioè hanno cercato praticamente all'inizio, imponendo alla cultura patriarcale di appropriarsi simbolicamente di questa capacità e di fondarla nel mito al maschile. E dice Mario Vex, anche nei popoli già diventati patriarcali, ancora per molto tempo ci furono uomini che vantavano un'origine partenogenetica, fra i quali Pitagora, Platone, Zoroastro, Buddha, Alessandro il Grande, l'imperatore romano Augusto e Cristo. E questo allo scopo di accreditarsi una sorta di superiorità naturale. L'ultima dea occidentale sopravvissuta, Maria, a questa ultima dea viene concesso di conservare una traccia dell'antico potere partenogenetico con la formula dell'Immacolata Concezione, ma anche in questo caso il frutto di questa partenogenesi è un maschio, che è un evento biologicamente impossibile, proprio del tutto impossibile. E lo stesso attributo di vergine che viene assegnato a Maria, l'ultima dea, subisce un totale cambiamento di contenuto. Il significato originario, dice Marianne Vex, che indicava come la donna fosse del tutto indipendente dall'uomo, è andato completamente perduto. Quindi, insomma, vediamo proprio attraverso la storia, c'è una specie di sindrome dell'invidia partenogenetica maschile, no? Freud parlava di invidia del pene, invece proprio alle basi della cultura maschile c'è proprio questa invidia partenogenetica che attraversa la storia con dei tentativi incessanti, anche allucinanti, di imitazione, no? Della capacità partenogenetica femminile, dall'homunculus degli alchimisti medievali, no? Che affermavano di poter creare l'uomo alchemicamente, ai robot, fino ai cyborg, ai cloni, no? E anche per esempio la fiaba di Pinocchio, che cos'è la fiaba di Pinocchio se non una fantasia partenogenetica maschile e artigianale, no? Con Giuseppe Falegname che ci riprova con le sue mani e con gli strumenti del mestiere e si clona un bambino di legno. Sebbene nella nostra cultura la partenogenesi è stata resa invisibile, però la sua esistenza non può essere negata e lo dimostrano le ricerche mediche e scientifiche, i casi e le testimonianze che Marianne Vex raccoglie in questo libro e di cui fornisce la documentazione. Dalla pubertà fino alla menopausa è un potenziale che è sempre in noi e che può essere vissuto inconsapevolmente anche nell'ambito di un rapporto eterosessuale, oppure può essere vissuto coscientemente, preparandosi all'unione con una figlia dell'anima, la chiama Marianne Vex. Come stimolare il concepimento partenogenetico? Qui in questo libro Marianne Vex fa un elenco dei procedimenti usati nella partenogenesi artificiale, no? Che sono abbastanza semplici, no? Ecco, questo dice: la scienza ufficiale dall'inizio del XX secolo ha sperimentato con gli animali nella ricerca sulla partenogenesi e i modi che hanno trovato fino adesso di stimolare artificialmente il concepimento partenogenetico sono questi: puntura dell'ovulo con sottili aghi, scuotimento meccanico dell'ovulo, effetto shock con freddo e caldo estremo, impulsi elettrici, in particolare la luce ultravioletta, sostanze isolate dallo sperma maschile, semplicemente per contatto, perché basta un contatto per far dividere questa cellula, soluzioni alcaline, calcio, etanolo, enzimi, sangue di bue, quindi una quantità di sostanze sembrano appunto stimolare questo sviluppo. Però per quanto riguarda invece la partenogenesi spontanea, no? Stimolare la partenogenesi spontanea, e qui insomma sono, da questo punto di vista sono illuminanti proprio le strategie patriarcali di repressione che Marianne Vex in questo libro analizza una per una, dal controllo del corpo femminile alla sua sottrazione al contatto con la luce, attraverso che la luce è fortemente stimolante della partenogenesi, no? Se voi pensate per esempio anche alle strategie a scala proprio planetaria, no? Per sottrarre il corpo delle donne alla luce, anche attraverso l'abbigliamento e la segregazione, pensate un attimo al burka per esempio, no? Pensare anche al fatto, voglio dire, che noi in questa cultura praticamente dobbiamo andare sempre in giro comunque coperte, vestite, a meno di non rischiare lo sturro, no? E che viviamo separate dalla luna. E fino alla dimensione fisica e emotiva, che è importantissima per creare le condizioni di un concepimento partenogenetico. Allora, parlo di alimentazione fisica e emotiva perché anche sono proprio due tipi di alimentazione, ma fanno lo stesso, fanno lo stesso effetto, no? Se noi per esempio ci alimentiamo sia fisicamente che emotivamente con elementi che sono in prevalenza acidi, questo diciamo frena e distrugge qualsiasi capacità di concepimento partenogenetico, oltre a determinare la nascita di maschi, perché il concepimento partenogenetico, ma anche il concepimento di maschi nel concepimento eterosessuale, dipende dalle condizioni di acidità dell'utero, cioè se l'utero è acido vengono maschi, se l'utero è alcalino vengono concepite femmine. Allora, c'è una parte molto interessante in questo libro che si ricollega proprio al discorso dell'autoguarigione, al fatto che diciamo, la nostra alimentazione oggi è prevalentemente composta da alimenti acidi piuttosto che alcalini, e cioè una dieta sempre più ricca di carne, sempre più ricca di conservanti, pesticidi, sono tutte cose che determinano acidità insieme anche allo stress. Vorrei a proposito di questo insomma sottolineare brevemente un fatto, bellissimo detto, perché non è che mi voglio tanto occupare di fecondazione artificiale, no? Un fatto che poi conoscono, che rivolgono a ambulatori per praticare una tecnica di fecondazione artificiale, poi partoriscono, attualmente hanno cominciato a fare qualche statistica, no? Per l'80% maschi, e questo dipende dal fatto che queste operazioni, questi tentativi, vengono in generale fatte in condizioni di stress notevoli. E a parte i costi, a parte il fatto di andare e mettersi nelle mani, a parte il fatto di doverci riprovare tante volte, tutto questo insomma crea, soprattutto nelle lesbiche, un tipo di veramente stress così forte da influenzare proprio la determinazione del sesso, perché crea proprio delle condizioni fisiche e psichiche di acidità. Allora, andando avanti nella lettura di questo libro, che appunto ha molti versi veramente eccezionale, si chiarisce anche il collegamento tra partenogenesi, salute e rigenerazione, un collegamento che Maria Alvex all'inizio del suo percorso di autoguarigione si è trovato di fronte ancora in un modo piuttosto oscuro, ma che poi progressivamente si è chiarito e si è saldato a una visione proprio veramente ampia, multiforme, della creatività universale, del modo in cui la natura preserva e trasmette la vita, e prevedendo fra l'altro anche la possibilità di una scomparsa o di una drastica riduzione del genere maschile. Allora, questa possibilità, cioè, per alcuna di noi può essere auspicabile, per altre può essere preoccupante, però insomma nella natura c'è, viene diciamo, sperimentata e vissuta da molte specie vegetali e molte specie animali, e può essere vissuta anche nella società umana. Saperlo, parlarne, diffondere questa conoscenza contribuisce senz'altro a questa possibilità. Allora, io per adesso mi fermo qui, se mi volete fare qualche domanda. Allora, che ne dite? Vi è piaciuta? Allora, molto interessante, vero? Che ne pensate? Comunque grazie a Rosanna Fiocchetto per l'affascinante prospettiva che ci ha presentato e per l'impegno che da sempre dimostra nel voler rivoluzionare la cultura patriarcale che ci opprime. E permettetemi una nota personale su quanto ha detto. Ho avuto il piacere di partecipare all'incontro con Rosanna immaginaria e francamente la mia prima reazione è stata di incredulità e di sorpresa. Sorpresa e anche disappunto per la tabuizzazione di questo argomento. Pensavo che la partenogenesi riguardasse solo gli insetti. Possibile, mi sono chiesta, che abbia dovuto aspettare 43 anni per venire a conoscenza di una tecnica di riproduzione che esiste da sempre e che soprattutto non contempla maschi e genera solo femmine? Sarebbe fantastico, ecco appunto, sarebbe. Il mio scetticismo cronico mi induce ad essere dubbiosa. Mai sentito parlare di partenogenesi umana, né trovato tracce in libri o in teorie o femministe, poche, da me conosciute. Significherà qualcosa? E su che dati statistici si basa l'analisi di Marianne Weix? Le testimonianze da lei riportate saranno affidabili? E via altri interrogativi molto razionalistici. In altri termini, ma sarà vero? È troppo bello per crederci, ma è troppo brutto non fidarsi senza approfondire. Quindi ho dato la mia disponibilità a Rosanna per costituire un gruppo di ricerca e di sperimentazione che si scambia esperienze ed informazioni nel tentativo di creare le basi per un movimento sulla partenogenesi. E voi, se siete interessate, ci date una mano? Mandateci le vostre adesioni, le vostre email, i vostri numeri di telefono, che noi li gireremo a Rosanna Fiocchetto, che sta organizzando il gruppo. Rosanna vi fornirà anche altre informazioni e ulteriore materiale. E allora che ne dite? Un mondo senza maschi è possibile? Va a illuminare sospendendo fuochi dolcissimi. Ghiaccio non sciolto, ferisce quel freddo che hai lasciato tu. Ferisce quel freddo, di ghiaccio non sciolto, ferisce quel freddo che hai lasciato tu. Sto male di lui. Allora, siamo quasi in chiusura e, come avete sentito, l'argomento è piuttosto particolare. Del resto anche al nostro interno abbiamo avuto diverse divergenze di opinione e ci sembra comunque una provocazione interessante che magari può essere ridiscussa anche in seguito. Insomma, speriamo di poter approfondire ulteriormente il discorso su partenogenesi e anche magari con l'aiuto di Rosanna Fiocchetto, che appunto ha curato questo libro piuttosto interessante di Marianne Weix. Dunque adesso cambiamo argomento e passiamo alla nostra rassegna cinematografica di Les Bollywood. Vi vogliamo dire naturalmente che giovedì prossimo scusate, non andremo in onda, come, per usare una formula inflazionata, per il 1° maggio appunto, ma ci rivedremo invece l'8 maggio, sempre alle 21.30, sempre presso il Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B, per la proiezione di Creature del Cielo di Jackson Peter, un film del 94, un film drammatico prodotto in Nuova Zelanda. E vi ricordiamo naturalmente che l'ingresso è riservato alle donne. Il 15 maggio proietteremo Chutney Popcorn del 99 per la regia di Nisha, speriamo che sia questa la pronuncia, perché il nome ovviamente è straniero. E a seguire il 15 maggio, anzi scusate, prima della proiezione, alle 18.30 ci sarà un incontro con Maria Rosa Cutrufelli su Kate Millett. Dunque, due parole su Cutrufelli: è una scrittrice di origine siciliana che vive e lavora qui a Roma, è una saggista, ha pubblicato numerosi libri di inchiesta sul lavoro e le condizioni della donna, romanzi, libri di viaggio, insomma è stata direttrice anche della rivista Tutte Storie. Di Kate Millett che cosa dire, insomma il nome parla da sé, si tratta appunto di una saggista, un'artista americana, e sarà al centro di questa conferenza, di questo seminario, soprattutto per quanto riguarda la narrativa lesbica da lei prodotta. E dunque a seguire invece il 22 e il 29 maggio, sempre per Les Bollywood, proietteremo Tipping the Velvet. Si tratta di un documentario che è stato mandato in onda in prima serata dalla BBC e che quindi in Italia è uscito soltanto su canali privati, e sarà molto interessante, è stato rimontato e lo manderemo in due parti perché è piuttosto lungo, questo il 22 e il 29 maggio. E per il momento direi che è tutto, quindi io e Claudia vi salutiamo, vi ringraziamo per essere state con noi e vi diamo appuntamento al prossimo martedì per una nuova calamità. Ciao a tutte. Ovviamente non andate via, perché oggi non sarà un quarto d'ora ma saranno gli ultimi 5 minuti in diretta. Ciao a tutte. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah, I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh. so bad. Grazie per i trillini, noi ricordiamo i nostri indirizzi a cui potete rivolgervi o potete contattarci, email contatti@clrbp.it, website www.clrbp.it, telefono 06 6864 201. Allora lasciamo la linea alla compagna di Liberamente e vogliamo mandare un saluto particolare a Caterina e buona guarigione anche a tutte quelle che stanno male. Arrivederci a martedì prossimo.